eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Ciao cari ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo belli carichi anche stamattina. Signore, c'è noi. Il sole, è bellissimo, sole, sta quasi arrivando la primavera. Posso dare una falsa notizia? È iniziata la primavera? Sì. Non si può, forse alle 24 non posso dire stupidate. Perché è iniziata la primavera? Così. Ma guarda che bel tempo che c'è, c'è di il fatto, sole, oggi stupendo. Primavera è tempo di andare all'aria aperta, parleremo di agricoltura. Certo, tra l'altro. Certo. I nostri amici agricoltori, coltivatori diretti, le buone notizie non mancano. Insomma, c'è la crescita dell'occupazione nel settore, anche se c'è sempre qualche difficoltà per via delle sanzioni, della cosa con la Russia, ma anche il maltempo, i danni, insomma. Ecco, subito sul maltempo, perché sì. Mi sono immaginato qualcuno che si collegava adesso con Radio 24, sente, si può fare, sente, è iniziata la primavera, c'è il lavoro, è ripartita, sta finendo la disoccupazione, hai detto un paio di cose, sono? E ho detto, ma cosa sta succedendo? Ma è tutto stupendo, è bellissimo, e giustamente invece il maltempo. Collegati dal 2028, Maurizio e Gabardini parlavano esatto. Di cose inesistenti, no, invece no, sono tutte cose vere. Va bene, quindi tra poco con i nostri amici agricoltori li aspettiamo, come sempre 800 24 00 24. Dico un'altra buona notizia che mi ha divertito, sì? Commosso Lamberto Sposini, che è tornato su Instagram, sì, quindi. Ha avuto migliaia di fan in poche ore dopo l'ictus che ha avuto nel 2011, il conduttore della Vita in Diretta. Adesso è tornato su Instagram e quindi ha avuto un sacco di follower che lo salutano, certo. Con messaggi di conforto, e lui diciamo mette soprattutto immagini di lui insieme alla propria famiglia. Io ieri sera invece ho assistito a Crozza, al Paese delle Meraviglie, in diretta, ero lì a vedere tra il pubblico. Dici sempre che io faccio i miei sabati e i miei venerdì sera a casa, triste guardando invece... il programma di Mercalli, invece ieri sera giusto, eri sul cubo a ballare. Voglio fare i complimenti, uno spettacolo dal vivo ancora più bello per chi ha la possibilità di andarci, ma insomma ogni venerdì sera ci sono diverse centinaia di persone pubblico, sì. Quindi si può andare, basta chiedere, insomma. Anche ed è molto lui, bello, lui molto ci bello. Tiene molto questo, avendo scritto per Crozza sì. diverse cose, diverse edizioni, devo dire che lui ci tiene moltissimo e ha ragionissimo in questa cosa, ad avere veramente un pubblico. È un bello spettacolo, sì. Perché il pubblico che non è quello del pubblico televisivo, che è lì comunque pagato per applaudire, ridi invece di più lì senza che nessuno ti chieda di farlo, che non dalla televisione. Esatto. Tanto e lui mi è bravo piaciuto... a tenerci a questa cosa, perché ti viene anche a te artista l'adrenalina, perché li devi far ridere veramente, questi non sono pagati per ridere. Mi quindi... è piaciuto molto vedere una cosa così spontanea, la moglie in tra il pubblico, Carla Signoris, bellissima tra l'altro, che rideva, se la ghignava da morire, come se fosse la prima volta che lo vedeva, insomma, esibirsi. Quindi è stata una cosa ancora più bella. Va bene, comico, complimenti più informale a tutti del paese, quelli che lavorano possiamo con dirlo. Allora, poi facciamo i complimenti anche ad Andrea, sì, Zalone, assolutamente. Sì. E poi c'è il gioco, non dimentichiamoci del gioco. E dico subito il premio, poi diciamo il gioco, perché mi il sembra premio giusto. Bisogna dirlo bene anche questa volta, perché lo facciamo in associazione con i Comuni Virtuosi in occasione del loro bando per il premio nazionale dei Comuni Virtuosi. Cari amici assessori, sindaci di comuni che aspirate ad essere virtuosi, potete candidarvi sul sito dell'associazione dei Comuni Virtuosi se avete buone pratiche nel campo dell'efficienza energetica, della mobilità dei rifiuti, e se siete un comune soprattutto. Avvisiamo che magari ci sono alcuni che chiamano loro personalmente per iscriversi. Il bando scade il 31 maggio, questa volta il premio ce lo mette a disposizione il comune virtuoso di Mezzago in provincia di Monza e Brianza, 4.000 abitanti, virtuoso perché ha recuperato terreni incolti, ha favorito la rinascita tra l'altro della sparago rosa, un prodotto denominazione comunale d'origine creata proprio da loro. Poi hanno convertito tutte le scuole a basso impatto energetico e ambientale, fanno il piedibus per i bambini la mattina, cioè passa un adulto, prende tutti i bambini, li mette in fila, li porta a scuola, così non vanno con la macchina. Pensa che bello. Bellissimo. Sì. E bellissimo. A volte anche con l'asino. Ah, però. Sì. Ma sai che adesso va di moda riutilizzare l'asino per fare tante cose. Però per andare a scuola l'asino mi sembra quasi un... Non è di buon... Non lo so, dipende poi chi entra in classe, andare a scuola con l'asino. Il gioco di oggi è questo. Allora, insomma, siccome ieri io abbiamo sentito con Miriam... buonanotte, mi continuo a sbagliare. Con Claudia Schiattone, Miriam Lucchetti, redazione, stavamo discutendo anche con Andrea Piana, con te Carlo, cosa facciamo il gioco? Berlusconi ha detto... è finita l'affidamento ai servizi sociali, ha detto vorrei continuare a fare questa cosa qua, stare con gli anziani. risate, è una base spaziale, ma dai, ma non è possibile. Vabbè, Berlusconi, diceva Montanelli, è talmente bravo a raccontare le balle che lui stesso ci crede prima di tutti gli altri. Però cioè, dire... io infatti ci credo sempre, devo dire, all'inizio ci crediamo tutti, dire sì. Le balle è anche un po' umano, l'importante poi magari è ammetterlo che si è raccontata una balla. Allora stamattina vi chiediamo, ascoltatori, di fare, come si dice, outing? No, coming out. Semmai coming out, ma direi più di denunciarsi, autodenunciare le proprie balle spaziali. Quando avete raccontato una balla spaziale, la più originale, la più clamorosa, che magari ci hanno creduto tutti, però poi voi adesso siete in grado, diciamo, di autodenunciarvi e di dire sì, in effetti quella volta lì l'ho sparata proprio. Potete grossa. Farlo anche in forma anonima, ovviamente. Cioè dandoci un nome falso, giusto? Vabbè, mettere una balla non detta. Noi non controlliamo, però poi se vincete il premio dovete darci l'indirizzo giusto, perché se no vi mandiamo, come facciamo a mandarvi il cesto di prodotti tipici a base di asparago rosa del comune di Mezzago, 800 24 00 24. Allora, le vostre balle le aspettiamo in diretta tra pochissimo. Nella vecchia azienda agricola, icola, icola, oh, quante bestie allo zio Cesco, esco, ciao, ai pidocchi, occhi, pid, quante bestie allo zio Cesco, tutte su di sé. C'è la capra, espiatoria, c'è il gomito, del tennista sconsolato, non può più giocare. Nella vecchia cooperativa. E allora, come detto, parliamo di agricoltura, perché la buona notizia questa settimana non è mancata. Nell'ultimo trimestre dell'anno, a fronte di un'occupazione che ristagna, di disoccupazione ancora molto alta, il dato degli occupati in agricoltura è cresciuto ancora nel quarto trimestre, pensate, solo nel quarto trimestre del 2014, dato Istat, più 7%, anche se non sono tutte rose, perché insomma il valore complessivo, diciamo, del prodotto all'agricoltura non è in aumento per via di una serie di cose negative di cui parleremo tra poco. Anche perché non possono essere tutte rose, no. È agricoltura. Saranno anche delle patate, anche dei mandarini, anche dei carciofi. Ne parliamo con Maria Letizia Gardoni, che è tra l'altro delegato nazionale della Coldiretti Giovani Imprese, e lei stessa una giovane imprenditrice nel settore dell'agricoltura. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, io dicevo, insomma, questo bel dato sull'occupazione da un lato, però poi insomma, l'agricoltura tira, questo sì, ma sappiamo che non è facile, perché c'è il tema delle sanzioni con la Russia, quindi il blocco delle esportazioni, ci sono i danni per il maltempo, quindi i volumi. Raccontaci un po', Maria Letizia, come leggere intanto questi dati? Dei dati assolutamente positivi che raccontano in modo molto obiettivo e reale quello che è il fenomeno di questo ritorno, soprattutto dei giovani al settore agroalimentare e al settore primario. Dei dati che in realtà noi Coldiretti non stupiscono, nel senso che negli ultimi 10-15 anni come Coldiretti abbiamo creato dei percorsi virtuosi che hanno fatto sì e che fanno sì che oggi i giovani possano tornare a guardare il settore primario con grande interesse. Questo ritorno dei giovani è un ritorno, io ci tengo sempre a sottolinearlo, che non è dettato da scarsa presenza di alternative possibili occupazionali in questo paese, ma è un ritorno che è dettato da una grande passione di questi giovani che hanno capito che nel settore agroalimentare possono dare piena soddisfazione e piena concretezza ai propri progetti e ai propri desideri. Cioè è una scelta, non è una costrizione. Assolutamente sì, ricordarlo. Esattamente, una scelta di vita, e tra l'altro è una scelta che stanno già facendo oggi 14enni e 15enni che scelgono come percorso formativo quello dell'istituto agrario. Se pensiamo che dall'inizio della crisi, quindi dal 2008-2009 ad oggi, l'iscrizione agli istituti agrari e le facoltà di agrare sono aumentate del 50%, e questo è un altro dato che appunto ci permette di leggere la situazione per quella che effettivamente è. Uno dei punti però diciamo critici di questa situazione, di questo ritorno anche alla terra, è proprio nella questione della terra, perché si dice spesso sì, va bene, però per chi ha già la terra di famiglia, perché insomma comprare un terreno è un investimento costoso, non tutti i giovani se lo possono permettere, anzi. Tu però sei la dimostrazione che invece si può fare, perché sei un'imprenditrice agricola, si può dire, di prima generazione. Assolutamente, sì. Diciamo, come hai iniziato? Ho iniziato a 19 anni, ho avviato la mia attività imprenditoriale e non avendo alcun tipo di tradizione agricola familiare alle spalle. I miei genitori sono dei dipendenti pubblici che ora sono in pensione e mi aiutano nella conduzione giornaliera della mia attività, ma è una scelta che appunto io ho fatto seguendo una mia passione, una scelta che ho maturato negli anni e che mi ha portato poi a seguire un percorso formativo che mi ha permesso oggi di diventare un imprenditore agricolo. L'investimento è stato un investimento abbastanza importante, perché appunto non ho ereditato alcun tipo di patrimonio, per cui ho dovuto acquistare terreno ed attrezzatura, ho dovuto accendere un mutuo ipotecario che finirò di pagare tra 10 anni, e quindi questo dimostra il fatto che comunque che si può fare che si può fare anche senza avere la terra di famiglia. Assolutamente. Poi tra l'altro voglio anche precisare che non è vero che oggi per essere un'azienda agricola di rispetto bisogna avere grandi estensioni di terreno. Oggi anche con un ettaro e mezzo di terreno, abbiamo esperienze che lo dimostrano, si può fare attività imprenditoriale che ti può permettere di vivere bene e di fare ulteriori investimenti. Questo è possibile perché oggi l'attività agricola, grazie ad un decreto legge del 2001 che era stato voluto da Coldiretti, diciamo ha espanso di fatto i suoi confini di attività, ai suoi confini aziendali, nel senso che oggi un'azienda agricola può produrre cibo ma può anche trasformarlo e venderlo direttamente. Oggi un'azienda agricola può fare ricezione turistica, oggi un'azienda agricola può fare educazione tramite le fattorie didattiche e gli agri asilo, oppure oggi un'azienda agricola può collaborare con le amministrazioni per la gestione dei parchi e dei giardini pubblici. Quindi questo significa che grazie a queste attività connesse, anche su piccoli appezzamenti di terreno, appezzamenti di terreno si può ricavare un fatturato di tutto rispetto. Tu di cosa ti occupi con la tua azienda agricola? Se non sbaglio hai scelto, diciamo, un settore, il biologico, ma anche ancora di più. Sì, in realtà io mi occupo di policoltura MAPI, che è praticamente un tipo di agricoltura molto naturale, a impatto ambientale tendente allo zero, che ha lo scopo di produrre, in questo caso, ortaggi e frutta destinati alle diete macrobiotiche, per cui io lavoro per i ristoranti macrobiotici della mia regione. Quindi diciamo che ho scelto e mi sono ritrovata a lavorare in un mercato particolare, un mercato di nicchia che in realtà è comunque in grande espansione. Questo posso farlo su una superficie comunque relativamente grande, quindi questa testimonianza del fatto che non bisogna essere dei grandi possedimenti, avere dei grandi possedimenti terreni per avere un'azienda di un certo tipo, di un certo livello. Anzi, forse per il macrobiotico ci si fida di più di qualcuno che ha un'azienda più prendibile in qualche modo, piuttosto che una gigantesca può darsi assolutamente. Azienda, mi veniva da dire azienda. Assolutamente. E sì, poi in un momento come questo, in cui comunque sta crescendo la sensibilità e l'attenzione dei cittadini e dei consumatori verso un prodotto il più naturale possibile, il più sicuro possibile, agricolture di questo tipo ti permettono ovviamente di mettere in campo dei progetti a lungo termine. E da questo punto di vista devo dire che come italiani, quindi come produttori agricoli italiani, battiamo qualsiasi tipo di confronto sul panorama internazionale e mondiale, perché la nostra agricoltura è l'agricoltura che ha il primato della sicurezza alimentare nel mondo. Ci sono molti controlli, è vero, in Italia sui nostri prodotti, abbiamo delle vette in Europa per quanto riguarda il biologico, ma anche nel mondo. Assolutamente. E la nostra agricoltura è sicuramente di qualità. Tornando però per un attimo, facciamo un appello, perché appunto Maria Letizia Gardoni è un'imprenditrice agricola, ma anche delegato nazionale Coldiretti Giovani Impresa, su questo tema però, insomma, dell'accesso alla terra, perché uno degli strumenti che è stato individuato, noi ne abbiamo parlato spesso, è quello della banca della terra, no? Cioè terreni abbandonati che in qualche modo pubblici e privati vengono dati a chi ha delle idee imprenditoriali per essere utilizzati. Iniziative che però spesso stentano poi a decollare, sono a macchia di leopardo, lo fanno alcune regioni, altre no. Potrebbe essere una cosa da prendere di petto anche da parte del governo, con una bella iniziativa nazionale? Allora, diciamo che il governo e il MIPAF hanno dato vita a questo decreto, che è il decreto Terre Vive, circa 6-7 mesi fa, con il quale hanno messo a disposizione, tramite dei bandi che sono online sul sito del MIPAF, questi primi 5.500 ettari di terreno che sono attualmente abbandonati, inutilizzati, da poter destinare a chiunque voglia fare attività imprenditoriale nel settore primario con il diritto di prelazione ai giovani sotto i 40 anni. Questi 5.500 ettari di terreno non rappresentano una superficie, diciamo, sufficiente per poter rispondere alle richieste che oggi ci sono. È un inizio. E questo ha dato il là, il via a queste costituzioni delle banche della terra, che stanno nascendo su tutto il territorio nazionale, già in diverse regioni come in Veneto, in Toscana, in Puglia, in Sicilia, sono già attive, stanno funzionando. E con queste banche della terra attualmente si sono censiti circa 140.000 ettari di terreno disponibili per chiunque voglia intraprendere in agricoltura. Quindi diciamo che la superficie disponibile comincia ad assumere dei connotati importanti dal punto di vista numerico. Certo, speriamo. Quello che bisogna fare è che appunto esortiamo le regioni, quelli che ancora non hanno effettuato questo passo, di continuare a fare esatto questo censimento, di farlo nel più breve tempo possibile, e soprattutto di mettere a disposizione, questo potrebbe farlo il governo, dei piani di garanzia che possano aiutare ai giovani ad accaparrarsi questi terreni disponibili, perché comunque anche questi terreni non verranno, diciamo, regalati, ma verranno dati o in affitto o in vendita, e anche in questo caso comunque valorizzati, meglio che abbandonati. È per questo che bisogna assolutamente accelerare e spingere su queste cose senza stare lì a perdere tempo con cavilli burocratici, almeno questo è quello che ritengo io. Grazie a Maria Letizia Gardoni per essere stata mille. Con noi. Buon grazie sabato. Arrivederci, grazie a voi. Arrivederci. E allora, a lei non abbiamo chiesto nulla sull'IMU agricola, perché dedichiamo tra poco un capitolo ad hoc. Non abbiamo chiesto neanche una bugia che avesse raccontato, vero, che potevamo iniziare, però aspettiamo sempre le vostre telefonate all'800 24 00 24. Tra poco invece parliamo proprio di IMU agricola, perché insomma c'è la protesta oggi dei sindaci della Basilicata. Non solo loro protestano, ma loro oggi in particolare, e vediamo a che punto siamo con questa vertenza qua aperta col governo. Poi naturalmente le vostre balle al numero verde. Posso dire una cosa? Sì. Allora, siccome, come ben sai, Alessio, io tutte le mattine quando vengo a Radio 24 per Si Può Fare pubblico una foto su Instagram, sul mio account Instagram, che va anche sul mio account di Twitter. E oggi ho twittato e ho messo su Instagram la foto con scritto "sono in ritardo". Mi risponde da Twitter un account che si chiama Chiaramente Sclerato e mi dice: "Tardi per tardi potresti fermarti a comprare una gardenia AISM". Ricordiamo che AISM è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e quindi volevo ricordarlo a tutti che il 7 e l'8 marzo si trova in giro la gardenia di AISM che aiuta la ricerca, oppure si può donare con un SMS al 45599 €2 da telefono fatelo fisso. Esatto. Facciamolo tutti. Volevo ricordarlo perché mi è piaciuto il modo in cui mi sono giustamente entrata a gamba tesa dicendo: "Tardi per tardi fermati a comprare una gardenia", quindi fermatevi voi a comprare delle gardenie. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. E gli ascoltatori che ci scrivete anche all'SMS 3492386666, ma hanno raccontato tutte queste belle storie sull'illusione, sull'agricoltura sono solo illusioni, scrive un ascoltatore che non si firma, un altro che dice non è sempre come dice la coltivatrice in onda adesso. No, non sarà sempre così, noi abbiamo chiesto a lei di raccontare la sua storia, però i dati dicono che c'è una crescita nel settore dell'agricoltura, di occupazione, e di lì siamo partiti. Alessandro da Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io grazie per avermi fatto intervenire. Io volevo parlare di OGM. Sì. Allora, purtroppo in Italia produciamo circa metà di quello che consumiamo, quindi siamo costretti ad importare il 50% di quello che ci serve dall'estero. Ma parla di cibo? Parlo di prodotti agricoli, mais, soia, frumento. Sì, ecco. C'è anche un po' un cortocircuito per cui buttiamo via le arance e poi consumiamo magari bevande importate dall'estero o prodotte in Italia ma di origine certo. straniera, c'è anche questo. Certo. Sì, comunque certo, ecco. C'è un fabbisogno che viene dalle importazioni, quindi anche con prodotti siccome, OGM. Esatto, siccome arriva l'OGM dall'estero, sì. noi purtroppo ce lo mangiamo senza saperlo, perché non lo troviamo scritto in etichetta. Quindi quello che io volevo dire era questo, piuttosto che vietare tout court l'uso dell'OGM, sì. sarebbe da metterlo in etichetta, ossia prodotto sì. Fabbricato mediante verissimo, ma è una delle battaglie degli agricoltori che... è proprio quella della trasparenza delle esatto. etichette, noi siamo perfettamente esatto. d'accordo, certo. Anche perché dopo si crea un paradosso economico, sì. nel senso che chi produce non OGM come me, io sono un agricoltore, cosa produce lei? Io ho seminativi, mais, frumento, soia, okay. cose del genere. Chi produce non OGM come me, dicevo, sì. Per produrlo sano, quindi secondo le norme della comunità europea, le micotossine, eccetera, eccetera, deve utilizzare dei pesticidi e quindi mi costa anche di più. E non sempre riesco a produrlo sano. Mentre chi fa OGM... Cioè sta dicendo che magari è meno sano il suo perché ha dentro i pesticidi, anche se è senza OGM... Non tanto per i pesticidi, perché i pesticidi servono a combattere degli insetti. Certo. Questi insetti, attaccando il mais, sviluppano, permettono lo sviluppo di funghi che generano delle micotossine cancerogene, che l'Unione Europea appunto ha messo dei limiti per la salubrità. Io, come tutti gli agricoltori, non sempre riesco a stare sotto questi limiti. Quindi il mio mais, nonostante sia non OGM, nonostante spendo per renderlo sano... Sì. Non sempre è così salubre e quindi vale di meno. Alessandro, ma è una curiosità, ma seguire la strada di cui abbiamo parlato alcune volte, che sembra pionieristica, ma in realtà un ritorno al passato di usare generi diversi, varietà molto diverse, semi molto diversi per diminuire l'effetto dei parassiti, è possibile secondo lei? È una soluzione? È un'alternativa all'OGM e al pesticida? Allora, la ricerca sta lavorando da anni a varietà resistenti agli attacchi di sì. questi insetti e anche alla resistenza ai funghi, però non è così facile, non è così immediato. Ma ripeto, volevo finire il discorso, sì. il paradosso economico qual è? Che il mio mais è quello degli agricoltori italiani che spendono di più per produrlo perché cercano di renderlo sano anche se non sempre ci riescono. Spendono di più, usano pesticidi. Poi quando vanno a venderlo sul mercato vale di meno di quello estero OGM, che è costato di meno perché non usano i pesticidi, però siccome rimane sotto i parametri europei delle micotossine vale di più. E forse quindi, è anche più sano, ci sta dicendo, quindi in realtà che un paradosso ci sta dando una notizia. Non è che lo dico io, lo dicono i parametri europei. Certo. Se le micotossine nel mio mais superano il limite, io non posso usarlo come alimentare, quindi vale niente. Quello estero con OGM... che sta ben sotto i parametri sulle micotossine, vale molto di più e hanno speso anche di meno per produrlo, quindi ci guadagnano due volte. Cosa possiamo fare per aiutarla, Alessandro? Oppure ci faccio lei una proposta in 30 secondi? Lasciare la possibilità di coltivare OGM, ma metterlo obbligatoriamente in etichetta, in modo che sia il consumatore. Va bene. È una battaglia di alcuni agricoltori, sicuramente ne abbiamo già parlato. Grazie Alessandro. Grazie mille per averci chiamato. Dobbiamo fare il traffico perché siamo in ritardo, ma aspettiamo anche le chiamate degli ascoltatori all'800 24 00 24 per le vostre balle spaziali. Oggi si fa coming out. Lavoro in questa pasticceria da un mese e sono quello giusto, quello di cui aveva bisogno il titolare. Veloce, pratico, versatile. Il cliente non ha contanti? Tranquillo, può usare la carta. Preferisce il bancomat? Nessun problema. Chi sono? Il POS sicuro di Vodafone Setefi. Metti la tecnologia Vodafone al servizio della tua attività. Se hai la partita IVA, scegli la soluzione per potenziare il tuo lavoro e diventare un ready business. Vai su readybusiness.vodafone.it. Strade in diretta. E rimane in coda sulla Roma-Fiumicino per un incidente fra il grande raccordo anulare e il bivio per la 12 Roma-Civitavecchia in direzione dell'aeroporto. Sulla 14 Adriatica invece circolazione rallentata per un veicolo che ha perso il carico tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. È tutto per il momento, ci risentiamo tra mezz'ora. si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, allora dunque il sindaco di Matera, Salvatore Adduce, che avevamo convocato stamattina per parlare della protesta sull'Imu agricola, non ci risponde al momento, sarà impegnato con gli altri sindaci a protestare, ma perché no, oggi c'era una manifestazione. Ah sì, ma sì, festeggiare sì, il fatto che sono la capitale oppure europea sono, della cultura. Stanno festeggiando ancora. Mi spiace molto perché volevo sapere anche che tempo lunga. C'era, ho un grande affetto per la città di Matera e per i suoi sassi. Ci concentriamo però sugli ascoltatori, abbiamo già in onda in attesa Maurizio dalla provincia di Forlì. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno. Su cosa voleva ecco, intervenire Maurizio? Niente, visto che oggi è la giornata dell'autodenuncia, volevo autodenunciarmi per quello che riguarda una palla spaziale che ho raccontato a una ragazza tanti anni fa. Però l'ha già raccontata altre volte o è la prima volta che la dice? No, è la prima volta, ma che scherziamo. Fantastico. Assolutamente. In esclusiva, esclusiva. In esclusiva, esatto. E in pratica le raccontai che ho fatto circa 4 anni di legione straniera, perché avevo delle ferite, avevo delle cicatrici nel corpo e io dissi questa grandissima balla. Una balla clamorosa, Maurizio, perché non è facile da argomentare. E le cicatrici che cos'erano? Un barbecue andato male? Eh? No, era un vecchio incidente che però insomma alla bisogna all'occorrenza era tornato utile. Esatto. E c'è cascata? C'è cascata lei? Me la sono sposata. Ecco, questo... A momento però Maurizio, ma siete ancora sposati? Assolutamente, certo. Però, felicemente da 22 anni. Sì. Quindi in realtà lei gli aveva già raccontato che quella era una balla, chiaramente, perché non credo che l'abbia. No, gliel'ho raccontata poco tempo fa a lei, ma non la sa nessuno. Ma è una storia stupenda questa. Cioè, scusi, dopo quanti anni Maurizio hai raccontato a tua moglie che quella che avevi detto era una balla? Dunque, 22, una decina di anni fa, circa. Ma dopo quanti anni che stavate insieme? 12. 12. Ah, dopo 12 anni, fantastico. Ma è bellissimo. Quindi hai retto per anni con questa balla. Ma c'è stato un momento di... Ho argomentato anche perché sono molto... mi piace appunto la storia, quindi quello che riguarda le regioni straniere e quant'altro. Quindi cioè ne sapevi? Per poter essere... Sì, esatto. Ma che, per esempio, dove gli avevi detto che eri stato? In che paesi? In Senegal, perché praticamente c'era una base a Dakar della regione straniera, quindi praticamente ho avuto modo di poter... Magari però, scusa, hai rischiato che... perché se la tua ragazza dell'epoca era magari una, come dire, una pacifista, una che non ama la guerra, poteva anche andarti male. Però dopo 12 anni poteva andarti male nell'altro senso, perché per 12 anni lei è stata sposata con uno che aveva fatto 4 anni di legione straniera. Poi quando l'ha saputo, come ha reagito? Ma detto che sono un cazzaro. Ah vabbè, allora questa mi sembra la degna conclusione dell'intervento di Maurizio. Grazie. Grazie mille. Questa era bella davvero, questa era grossa davvero. Massimo dalla provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buona giornata a tutti. Tenuto conto che amo fare la raccolta di cartoline della serie, che quando qualche mio amico va in vacanza mi porta sempre delle cartoline non scritte dal posto che vive. Ah, non spedite, quindi non affrancate. Non spedite. Cosa ho fatto una volta? Una volta è arrivata una cartolina scritta con un francobollo dalle Maldive, che non era stato timbrato bene. Io ho staccato il francobollo, ho preso una cartolina bianca che avevo dalle Maldive e l'ho spedita a un mio amico. Perché? Grande amico. Dicendo che fingendo di essere le Maldive. Era le Maldive. Logicamente ho organizzato bene la cosa, poi dovevo stare via per lavoro una settimana, sono tornato, ho dovuto fare un paio di lampade, cosa che non ho mai fatto. Ma perché hai fatto questa cosa, Massimo? Per darti un tono di quello che è stata le Maldive? Sì, ma scherzando, faccio teatro comico in dialetto milanese, logicamente... ogni occasione è buona per fare il burlone. Ma lo sai che una volta ero in vacanza con degli amici in Sardegna e un mio amico ha mandato la cartolina alla nonna scrivendo dalla Costa Smeralda, ma non eravamo in Costa Smeralda, per fare bella figura, o con la mamma o con la nonna, non mi ricordo. Quindi voi eravate nel centro, in un posto qualunque che non era la Costa Smeralda, era un po' meno, diciamo, VIP. E però per fare bella figura, cosa non si fa, Massimo? Esatto. E gliel'hai detto? Gliel'hai detto adesso per radio o gliel'avevi già detto che non sei stato alle Maldive? No, poi gliel'avevo detto, l'aveva fatta pagare. Un giorno mi aveva mandato poi fuori da un centro commerciale lontanissimo, dicendo che dovevo tirare un pacco e poi non era vero. Ci facciamo questi scherzi. Ha fatto il controscherzo. Grazie Massimo. Grazie mille. 800 24 00 24, vi aspettiamo di nuovo dopo il giornale radio, cari ascoltatori, con le vostre balle ma anche con i commenti sulla storia agricola, diciamo, da cui siamo partiti oggi. Le buone notizie sull'agricoltura. A dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare, anzi questo è il nostro Si può fare in musica, Shots, Imagine Dragons, che avete appena ascoltato. Vi ricordiamo, questa canzone ci è stata segnalata dal nostro ascoltatore Giulio Vernacci. Vi ricordiamo che potete segnalarci i vostri Si può fare in musica, ovvero un vostro modo in cui pensate che una canzone ha trasformato o riesce a comunicare ciò che significa Si può fare. Lo potete fare sui nostri account social Si può fare trattino Radio 24 su Facebook, oppure sull'account di Twitter Si può fare 24, oppure sul nostro account personale. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini e il mio chiocciola Ale Maurizi. Allora, ci sono un po' di messaggi. Dite ad Alessandro che si può fare ritornando alla rotazione agraria, riferendosi all'ascoltatore di prima che parlava degli OGM, la rotazione agraria che sì, diciamo, alcuni usano come alternativa surrogato ai pesticidi, però Alessandro stesso ci diceva che non sempre funziona, non è così facile. Va bene, abbiamo comunque apprezzato molto. È molto apprezzabile l'agricoltore che ci ha chiamato dicendo sì, va bene gli OGM, però a me ogni tanto che produco senza OGM mi tocca mettere dei pesticidi, per cui produco del grano che potrebbe essere, diciamo, che supera le soglie della cancerogenicità. Ho sbagliato di sicuro un po' di consonanti, ma pazienza. Bodarzi, non importa, andiamo avanti lo stesso. Ascoltatori, vi aspettiamo all'800 24 00 24 su questo argomento, anche su altri, e per le vostre balle spaziali, perché insomma siamo partiti da Berlusconi che alla fine del suo affidamento ai servizi sociali ieri, l'ultimo giorno, a Cesano Boscone. Tra l'altro Cesano Boscone, sai che è uno dei comuni virtuosi? Aderisce alla Cesano Comuni Virtuosi. Questo è un brevissimo inciso. È un premio, il posto di Berlusconi è uno dei premi. Quest'anno, cioè, oggi abbiamo il cesto del Comune Virtuoso, ma può essere che settimana prossima ci sarà in palio il posto di Berlusconi, che è stato lasciato libero. Insomma, lo ricordiamo agli ascoltatori che non ci hanno sentito all'inizio. Lui ha detto: voglio continuare a fare questo volontariato dagli anziani. Balla spaziale, perché non ci crede nessuno. Che tra l'altro, letta così, potrebbe essere: voglio delinquere di modo che poi mi diano altri 10 mesi. O sbaglio? Ho sbagliato? Non lo so, può darsi, può essere una lettura anche questa. Noi però quello che ci interessa è che insomma si possono raccontare le balle, però bisogna ammetterlo. E allora questa mattina l'occasione qua a Radio 24 è proprio questa, quella di come dire, fare autodenuncia. Quella volta lì l'ho sparata proprio grossa, e raccontarcela in onda. Marco da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, questa è una balla comunque volontaria, sono così un po' famoso dagli amici per raccontarle a fine di scherzo, però a volte sono balle che hanno degli effetti clamorosi. Sì, ma perché sono anche le balle involontarie? Anche io mi stavo chiedendo questo. Cosa vuol dire? No, palle non a fine, come dire, per un secondo fine, per puro divertimento. Ah, cioè proprio per scopo quasi provocatorio. Sono scherzi. Esatto. Sentiamo, esatto. Marco? Era del 89 o 90, non ricordo esattamente. Allora stavo andando in trasferta con una collega statistica che attualmente insegna dall'altra a Columbia a New York, e avevano appena messo i nuovi pullman, quelli con le sospensioni che si alzano di trasporto dalle stazioni agli aerei. E allora ho detto, dico, sai perché? Ha visto, hanno messo i nuovi aerei, ma questi si alzano. Dice, sì, come mai? Ah, dico, e mi è venuta istantanea. Dico, Fiumicino era stata fatta su una zona paludosa e c'erano colonie di nutrie, quei castori europei, che nel frattempo si sono riprodotti, sì. e di notte soprattutto scorrazzano per la pista. E quindi per evitarle... Gli autobus che erano molto bassi schiacciavano. Sì. Quindi Italia Nostra aveva fatto una richiesta. Italia Nostra addirittura. Sì, sì. Perché le bugie funzionano. Le bugie funzionano se uno si infila dentro delle particolarità e dei dettagli. E la collega c'è cascata, Marco. Ma la coda clamorosa, sì, è che forse sarà stato 5 mesi dopo, giuro, è verissimo, ero a Linate, pullman di trasferimento all'aereo. Due signore a fianco dicono, sai, qui a Milano non abbiamo gli autobus come a Roma perché non abbiamo le nutrie. Allora, cioè sarà sparsa la voce. La prima dimostrazione che si possono creare leggende metropolitane. Ma lei è sicuro di essere stato lei, Marco, all'origine di tutto questo? No, non ho questa certezza. Però, la certezza di averla sentita, però. Ma mi sembra più probabile che sia stato lei piuttosto che ci siano tante altre persone che raccontano che i pullman sono fatti così per le nutrie, direi. Quindi, probabile. Direi che si candida per una delle bugie più belle di sicuro. Grazie comunque, grazie, buona mille. Giornata. Buona giornata. Occhio alle nutrie. Nutrie, tra l'altro questa settimana c'è stato non so chi esponente, credo un sindaco forse di un comune virtuoso della Lega, che ha detto, ha proposto di usare le nutrie per nutrirsi, per mangiarle. C'è stato un politico che ha sparato questa cosa qua. Liana da Roma, buongiorno, ora controlliamo. Lei. Prego. Allora siamo nel 1965. Ma sempre più indietro, dall'89 al 65. Partenza da Fiumicino. Noi eravamo una coppia appena sposati, sì. 6 ottobre, quindi e partiamo. A Fiumicino incontriamo un'altra coppia per lo stesso viaggio, destinazione stessa. E quindi piacere, anche loro appena sposati. Noi, e io mi vergogno di dire che sono una anche perché avevo un set di valigie regalo di nozze, quindi tutte infilate, no? Loro due valigette piccole, io non lo so, volevo fare la viaggiatrice scaltra, e quindi le dico che noi erano già 3 anni che ci siamo sposati, peraltro, cioè, così gli è venuto Diana, distinto, ma proprio subito, ma distinto, perché dopo 3 anni, ma io non ho capito perché dopo 3 anni sono più giustificate le valigie. Mi sembravano 3 anni di matrimonio, avevo 19 anni, eh. Ah, perfetto. Le valigie mio marito ne aveva 11, sì, le coordina tutte in fila, guarda, se ci penso mi vergogno ancora. Allora, poi in più non c'entrava, sull'aereo non si potevano portare tutte queste valigie, quindi loro gentilmente si sono presi ognuno una valigia delle nostre, e quindi partiamo così, quindi scendiamo in Spagna, poi il viaggio era molto lungo, durava un mese, ci siamo imbarcati logicamente la stessa crociera, e man mano l'amicizia si faceva più stretta. Noi e quindi avevamo fatto sostenere la balla era sempre più difficile. Sì, noi sempre più io cercavo di slittare alle domande dirette, dove sei, dove... insomma, però sempre piano piano. Un inferno, loro... questa vacanza stava diventando un inferno per lei. Un inferno, e mamma, loro erano molto occupati, volevano tornare in Sicilia con un figlio, quindi la sera fortunatamente si ritiravano presto, dicevamo, gli offrivamo il VOV, tutta sta scena qui. Vabbè, poi alla fine che è successo, Liana? Era una parte interessante, il VOV per concepire un figlio, mi sembrava una bella parte. No, le spiego il perché dopo. Allora praticamente ritorniamo, e questi man mano che ci avvicinavamo a Civitavecchia dicevano, quasi quasi noi ci fermiamo a Roma qualche giorno, noi, ma certo, certo, venite da noi, che problema c'è? A quel punto che problema c'è? Io dico, oddio, come faccio? Tutti i parenti ci sarebbero venuti a trovare, gli sposini ritornano. Beh, bastava a un certo punto fermarsi. Ho detto, guarda, innocente balla, Liana. E quindi dobbiamo dire, gliel'abbiamo detto, siamo finiti tutti e quattro in albergo perché la casa non era pronta. Non c'era ancora. Però io, insomma, Liana, era una balla, non era una balla molto grave, insomma, era una cosa così innocente. Sono diventati padrino e madrina della mia prima figlia. Perché però, amici veri, senza Bob sono rimasta incinta. Loro ci hanno messo 9 anni. Liana, ma una cosa, mi tolga una curiosità, ma le è capitato altre volte in futuro, cioè diciamo rispetto a questo episodio, di raccontare così delle balle di istinto? No, oppure questa è stata da lezione? Nonostante io sia stata tutta la vita una venditrice, no, balle non ho dette mai più dopo questa. È stato un grande poi mortificazione doverne uscire, perché quelli mi guardavano, dicevano, ma perché l'hai detta? Infatti. E non lo sapevo neanche io perché era venuta così. Va bene, grazie. Perfetto, è molto bello poi il fatto che lei dice, e io comunque ero incinta, e invece l'altra coppia ci ha messo 9 anni, quindi possiamo dire che forse raccontare balle rende fertili. Allora, a proposito della notizia di prima, Claudia Schettone giustamente, prontamente ci ricorda che lo ha detto Mirko Lorenzon, assessore provinciale alla protezione civile, che le nutrie sono una carne sanissima e buonissima. Quindi a proposito di nutrie e della balla spaziale dell'ascoltatore di prima, Marco da Roma. Adesso ci fermiamo per il traffico, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Non mi stanco ancora a stare sotto il sole, a prenderti la mano, a dirti che ti amo. Passeranno gli anni, cambierò colore, ma io sono sicuro che saremo ancora noi due, come l'asino ed il mu, come il bianco e il nero, come una bicicletta che va sopra la collina, in salita a fatica. Una piccola abbazia dove ogni giorno che vivrò ti sposerò. L'idea del sindaco di Cernobbio di riunire 6 comuni, il suo, ma anche Maslianico, Moltrasio, Carate Urio, Laglio e Brienno, tutti i comuni che stanno sulla riva sinistra del lago di Como, in un unico comune, e chiamarlo Riva Romantica. Sai che business, per esempio, anche solo coi matrimoni. E coi promessi sposi anche. Buongiorno, il sindaco di Cernobbio. Buongiorno. Paolo Fulgoni è con noi. Buongiorno a tutti. Beh, insomma, le è piaciuto Giovanotti? Sì, mi è piaciuto Giovanotti. Beh, insomma, l'idea però è anche un'idea virtuosa, diciamo, perché adesso c'è un incentivo del governo per i comuni che si fondono, intanto, vero? Sì, è un'idea virtuosa. La prima cosa che vorrei dire è che Riva Romantica non è un mio brand, è una suggestione giornalistica che ha sicuramente il suo fascino, ma non ho mai fatto nomi, non... per il semplice fatto che credo si debba partire da... Ma era anche il nome di una unione di comuni che c'era già prima, esatto, vero? Esatto, che riguardava però i paesi non Cernobbio e non Maslianico, riguardava proprio i paesi che sono sul lago, insomma. Sì. Sì, un nome, ripeto, ricco di fascino. Quindi diciamo, però... lei come sindaco di Cernobbio rivendica la paternità dell'idea di fondere questi comuni, esatto, poi sul nome si vedrà. Sul nome si vedrà. Ed è certo una questione anche economica, lei parlava degli incentivi del governo, ma anche qui, prima di tutto, è una questione legata al miglioramento dei servizi, all'ottimizzazione dei servizi e a rendere questi servizi ancora sostenibili. e anche a progettare e sviluppare meglio il territorio. Serve soprattutto a questo, a far vivere meglio le persone e a valorizzare il territorio. Ma infatti gli incentivi del governo arrivano proprio perché si vuole favorire una buona pratica, che esatto, è quella di cui sta parlando lei. So che ne state parlando, cioè, concretamente con i sindaci degli altri comuni, cioè, c'è disponibilità, no? Sì, abbiamo avviato un confronto, devo dire, molto sereno anche. Sì. Certo, c'è la posizione molto decisa sul no del sindaco di Laglio. C'è qualche perplessità. Laglio, dove c'è la villa di George Clooney. Esatto, sì. Esatto. Perché loro ci tengono alla loro specificità lagliese, forse. Ma anche il sindaco dice che sono importanti i piccoli comuni, anche nel suo caso credo un discorso un po' più generale, insomma, non solo legato proprio al campanile in qualche modo. Ma e poi c'è qualche perplessità legata anche ai fatti storici, ad esempio del comune di Maslianico, che mi ha manifestato, il sindaco devo dire, una certa disponibilità, ma diciamo mi ha riferito la popolazione un po' preoccupata. Cioè, hanno paura, la vedono come uno che si vuole annettere, perché lei è il comune più grande, no? Esatto, Cernobbio. Esatto. Quanti abitanti fa Cernobbio? Circa 7.000. Gli altri sono comuni un pochino più piccolini. Più piccoli. E qual è il problema degli abitanti? E l'idea in qualche modo, appunto, come dicevamo un attimo fa, di sentirsi annessi, io credo. Ma credo anche che si debba, per quello che è importante, guardare oltre, cercare di capire che questo innanzitutto è cercare un livello amministrativo più adeguato per gestire i problemi delle persone e non togliere l'identità. Maslianico rimarrà Maslianico, Cernobbio Cernobbio. Io cito sempre come esempio che Cernobbio è nata negli anni 30 dalla fusione di tre diversi comuni, due si chiamavano Rovenna e Piazza Santo Stefano, e se uno dice, io abito a Rovenna, se uno dice a quelli di Rovenna che non sono di Rovenna, non ci crede, nel senso che si sentono, l'identità è una cosa diversa dal livello amministrativo. Credo che questa è la cosa che va spiegata alle persone. Giusto, sì, cioè sì, che sì, può rimanere identità nonostante poi a livello amministrativo ci sia un'unione, entrambe le cose. Esatto, questo è fondamentale. Poi ci sono le realtà sociali, quelle vive, le associazioni, queste cose che nessuno toglie, anzi possono solo avere giovamento da una situazione amministrativa più stabile e che consenta di programmare il futuro. Poi ci dovrebbe comunque essere un referendum, no? Se non ricordo male. Assolutamente sì, la normativa impone un referendum. Perché noi abbiamo parlato un poco tempo fa, tra l'altro abbiamo raccontato la storia andata a lieto fine, in questo caso il comune di Monteveglio nel Bolognese, sì. Una fusione col sindaco Daniele Ruscigno, riuscita bene, tra l'altro anche con risparmi proprio certificati da parte dell'amministrazione, insomma, quindi la strada da questo punto di vista può essere segnata. Ha ragione, perché esempi ormai significativi ce ne sono, ma anche sul lago di Como abbiamo almeno altre tre fusioni più o meno recenti che stanno andando bene proprio sul lago di Como, certo con dimensioni più piccole, perché sì, i paesi del lago poi sono più piccoli, però anche quelle più recenti della Tremezzina e di Bellagio con Civenna stanno dando buoni risultati. Però io quello che capisco è che lei, insomma, a lei sta a cuore soprattutto, diciamo, la fusione amministrativa dei comuni. Sul nome non si scalda più di tanto, no, anche perché no, la partita è ancora aperta, quindi non vuole mettere un cappello anche con il futuro nome. Certo, bisognerà trovare però un nome diverso da Cernobbio, perché sennò certo, saprebbe proprio di annessione. Ma a lei piace o no Riva Romantica? Sì, Riva Romantica, sì, mi piace. Fa un po' troppo Disney. C'è un po' tanta riva, insomma. Esatto. Siccome non siamo solo riva, ti racconto anche di questo aspetto qua, perché ad esempio Maslianico non è sul lago. Ma detto questo, veramente, non è per non esprimermi, è perché mi rendo conto che è talmente delicata la questione, che per cui preferisco adesso concentrarmi sul far capire gli aspetti positivi, non solo economici, ma anche sociali e di sviluppo che ci sarebbero. Ma si potrebbe far scegliere il nome anche ai cittadini? Assolutamente sì, sarebbe una bella, forse sarebbe l'idea migliore. Quindi sarebbe anche molto divertente. Quindi come funziona? Il referendum si fa però soltanto dopo che c'è stato il voto nei consigli comunali? Allora, i meccanismi possono essere differenti, nel senso che può essere, diciamo, quello più normalmente utilizzato, che i consigli comunali prendono l'iniziativa, approvano, costruiscono il percorso e poi si fa votare. E poi la regione Lombardia, nel nostro caso, sottopone ai cittadini il referendum. Ma non di tutta la Lombardia, solo i cittadini dei comuni. Solo i cittadini dei comuni interessati. Certo. No, scusi, sono lo stupido dei due, ogni tanto. Esiste anche un percorso inverso, che però è più complesso, per cui si parte proprio da un referendum di iniziativa popolare, però è decisamente più complesso. E poi, sì, insomma, chi ha fatto questo percorso fino ad ora ha seguito la prima strada, esatto, prima il voto di, prima, che sappia io sì, che sappia prima io, sembra di capire che siete più decido, d'accordo voi sindaci piuttosto che i cittadini. Sì, ma sa, è vero, però ai cittadini bisogna anche spiegarla, perché sennò il risultato, anche simpatico per carità, di questi articoli che sono passi sul giornale, anche del nome, e cioè, ti dice no, Riva Romantica è bruttissimo, piuttosto che, cioè, bisogna però capire, già se ne discute, vede, esatto, già infatti, si comincia infatti, a discuterne, infatti, questo comunque infatti, che si apra un dibattito è un fatto positivo. Intanto grazie per essere stato con noi, grazie al sindaco di Cernobbio Paolo Furgoni. Mille. Vedremo se nascerà questa Riva Romantica o, insomma, con un altro nome, questa fusione di comuni sul lago di Como. Beh, il nome di Riva Romantica fa un po' Disney, no? È chiaro, però potrebbe anche avere un forte effetto di richiamo per quanto riguarda il turismo. Ma poi è bello sceglierlo, secondo me, è bello sceglierlo anche tutti insieme. E d'altronde, non, come giustamente spiegava il sindaco, può rimanere un'identità, come c'è l'identità all'interno di Siena dei quartieri, o come io che sono italiano e sono anche milanese, quindi non è un problema. Uno può essere sia di questo comune unito, che sarebbe, da quello che ho capito, di 15.000 abitanti, però comunque avere un rapporto affettivo nei confronti della frazione, nel caso, o del proprio comune. 800240024, ascoltatore, vi aspettiamo tra un attimo. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. Eccoci qua, cari ascoltatori, nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buon sabato a tutti. 800240024, abbiamo Emma che ci chiama da Torino, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Allora, la mia palla spaziale è questa: io sono freddolosissima, non soffro mai il caldo, anche d'estate sempre con manichine lunghe così. Era l'estate del 2003. Ed era arrivata una nuova collega che non conosceva questa mia caratteristica, perché dopo un po' che mi si frequenta mi si conosce. E continuava a lamentarsi per il caldo, che faceva caldo, che non dormiva la notte. E a un certo punto, dato che io non mi lamentavo mai, mi vedeva sempre con queste maniche lunghe, mi chiede: ma scusa, ma tu come fai che non ti lamenti? Qual è il tuo segreto? E io, ma così, pensando di fare una battuta, le ho risposto: guarda, io ho frequentato un corso di yoga. Il fatto sta che poi dopo, successivamente, c'è scritta, eravamo, anche lei, no, è venuta a chiedermi, è la signora, voleva, certo. E tu cosa le hai detto, Emma? E poi gliel'ho detto, ho detto: ma guarda che era una battuta, però io l'avevo, le avevo risposto in maniera talmente convincente, talmente seria, che si sa, lo yoga può tutto, almeno così dicono. È un'ottima risposta, diciamo. No, ho fatto il corso però, di yoga. Anche questa però era una balla innocente, dai, era un po' uno scherzo. No, doveva mandarla a fare il corso e poi vedere allora se funzionava. E quello allora ci chiamava per il giorno che chiederemo gli effetti placebo. Allora era perfetto. Va bene, Emma, ringraziamo grazie moltissimo. Buona grazie giornata. Buona giornata. Allora, voglio solo ricordare il premio di oggi, perché è un cesto di prodotti a base di asparago rosa di offerti dal comune virtuoso di Mezzago in provincia di Monza e Brianza, a chi ci racconta la propria balla spaziale. Oggi vi chiediamo di autodenunciarvi, perché raccontare balle è umano, però poi bisogna dirlo, e allora gli viene la parte. Bisogna denunciarsi. Buono l'asparago rosa, però adesso chiamo anch'io camuffando la voce e togliendomi questa brutta remoscia. Adesso è il momento di ritrovare il nostro Rossano Ercolini, che ci aiuta a orientarci di fronte al cassonetto dei rifiuti. Ci sarà o non ci sarà? Stasera mi butto, stasera mi butto con te. E faccio di tutto, e faccio di tutto per stare con te. Per caso tu non credi che invece sì, dal momento che mi vedi qui, mi sembra che ora invece sì. Ho deciso che mi butterò, ma devi fare qualcosa che tu questa volta non ci sono se io non parlo, adesso tocca a te. Stasera mi butto, stasera mi butto. Eccolo qua, buongiorno Rossano. Buongiorno, Rossano Colini, buongiorno. Il maestro di Capanno, il premio Nobel per l'ambiente 2013, ma anche rappresentante di Zero Waste, la strategia dei rifiuti zero. Rossano, oggi ci sei finalmente, l'altro sabato ci hai fatto... Mi scuso, ci hai tenuto in attesa, telefonate, gente, sms, ma cos'è successo allo Stare Colini? Niente, tranquilli, era in una scuola a parlare con i ragazzi, ci hai fatto prendere la mano naturalmente, eravamo solo il telefono preoccupati. Non l'aveva visto. Eravamo solo preoccupati, siamo felicissimi però che sei qui con noi. Ripartiamo da lì, perché insomma avevamo parlato di medicinali e vogliamo chiederti proprio questo, cioè le medicine scadute, i contenitori, i recipienti, che fare con queste cose qua, dove buttarle? Allora, i medicinali scaduti, quelli effettivamente scaduti, vanno conferiti negli appositi contenitori che in genere, anzi obbligatoriamente, sono nelle farmacie, con l'aggiunta di eventualmente di isole ecologiche. Sì, beh, comunque in farmacia si trovano, devo dire che sì, sono si molto trovano disponibili. Bisogna buttare dentro uno per uno. Io ho appena traslocato, quindi sono andato con due enormi sacchetti di medicine scadute, di 8 anni di medicine scadute, e infilarli uno a uno ci sono volute diverse ore, ma devo ammettere. Ma perché tu avevi accumulato? Sì, è colpa mia. Ecco, ok. Scusa, ti abbiamo interrotto. Adottare l'accorgimento di recuperare la scatolina e mettere l'asse di carta nel contenitore apposito della carta, le plastiche, lo stesso blister. Ecco, il blister dove si butta? Il cosiddetto blister. Essendo un imballaggio, può essere messo nella cosiddetta raccolta del multimateriale oppure del multimateriale leggero, delle plastiche, insomma, per essere... Quindi il blister terminato non va portato in farmacia, ma va messo insieme alla bottiglia di plastica? Va separato dalla parte, diciamo, dalla medicinale. Certo, no, perché tu, Carlo, scusa Rossano, perché tu, Carlo, sei andato in farmacia, hai buttato dentro tutto con le bottigliette, i blister, tutto così. Certo, va buttato no, così. No, devi tirarle fuori. No. Tutte le pillole singole. Può essere separato quello che va sottratto alla raccolta comune del rifiuto urbano, è ovviamente il medicinale che contiene in genere dei principi attivi che possono creare problemi al suolo, alle acque, ma il resto è materiale no, più o meno riciclabile. Ma scusa, in quel caso... è certo che è riciclabile, però io non è che vado in farmacia e se ho mezza bottiglia di sciroppo che mi è scaduto, non è che verso dentro lo sciroppo nel contenitore della farmacia, butto tutta la bottiglia. Osservazione acuta, il problema dello sciroppo è un po' a parte, però se lo sciroppo è esaurito, quello è vetro e può perfetto, andare. Se è esaurito, ma se non è esaurito va buttato, certo, con la confezione, se no il povero farmacista, farmacista si trova un pacciugo di pasticche e sciroppi. Però bisogna stare attenti, se i medicinali non sono scaduti, adesso da poco tempo è partito il banco farmaceutico in molte città italiane, per cui se il medicinale, ci sono degli esperti, lo stesso farmacista che collabora all'iniziativa darà le apposite indicazioni, se il medicinale ha una scadenza ancora lunga, almeno 6 mesi, può essere riutilizzato un po' come il cibo, come il prodotto alimentare che prima di mandarlo in scadenza viene ritirato dal banco alimentare e rimesso nel circuito virtuoso. Tra l'altro ci sono anche problemi sociali. È un'ipotesi, cioè, a meno che non sia una scelta, diciamo, volontaria che uno fa di donare il farmaco, perché altrimenti uno se lo compra perché al mal di gola poi se lo tiene lì, non pensi di buttarlo via solo quando esiste il mondo di tutti i farmaci di un parente che magari muore e a quel punto uno ha dei farmaci che non usa per sé e quindi decide di donare, magari ne ha comprate delle scorte. Sì, ma magari che ha preso degli antibiotici, certo dipende dall'esperto e comunque questa organizzazione, questa modalità è ben vigilata, ben presidiata, che c'è un esperto, non siamo solo noi a decidere, l'utente comune deve valutare se la confezione, per esempio adoperiamo solo una parte dell'intera confezione, le altre parti sono ancora integre e possono essere riutilizzate. Rossano, oggi però voglio chiederti anche un piccolo commento, c'è stato un passaggio parlamentare, vedremo se andrà in porto, parlo del DDL sugli ecorifiuti, un passaggio importante, disastro ambientale, inquinamento, pene per reati nuovi che si aspettavano da un po'. Sì, è un'ottima notizia, cioè, certo bisogna aspettare il passaggio successivo alla Camera, speriamo che il decreto venga approvato in questo modo, tra l'altro dobbiamo rendere merito sia al Lega Ambiente che al Movimento 5 Stelle, che sono stati un po' coloro che hanno spinto, ma anche noi di Zero Waste Italy abbiamo supportato l'iniziativa. È un bel risultato se viene confermato, perché finalmente si allungano i tempi delle prescrizioni. E sì, si evitano i colpi di spugna, penso all'Eternit, certo, penso alla Terra dei Fuochi e tante cose. Terra sì. dei Fuochi, eccetera. Quindi d'ora in avanti, se il disegno di legge diventa legge effettiva, prima di compiere inquinamento ambientale e ancor di più un disastro ambientale che viene punito da 5 a 12 anni di carcere, ci si penserà due volte, quindi è un atto di civiltà giuridica, è un atto Bene. Di civiltà. Lo festeggiamo per il momento. Volevo chiederti una cosa, ci chiedono i nostri ascoltatori, dicono il blister alla stagnola non va con la plastica, e seconda domanda è, ma perché, cioè chiedete a Rossano, perché a Capannori un sacchetto di non riciclabile costa all'utente 10 euro? Ma non, dunque, allora invertiamo, perché essendo capannorese mi sento direttamente chiamato, certo. in casa. Non costa 10 euro. Allora, intanto ogni famiglia, ogni utenza viene dotata di un tot, a seconda se è formata da 3 persone o da 5 persone, di tot sacchi grigi trasparenti per il ritiro della frazione indifferenziata. Questi non vengono pagati, perché si stima che ogni famiglia abbia a disposizione un sacco al mese, e questo sacco al mese, questo ritiro non viene conteggiato nella tariffa. Se uno non riesce a starci dentro, naturalmente deve acquistarne di più, e l'acquisto di ulteriori, perché è pigro, perché non separa adeguatamente, perché produce tanti rifiuti, lo paga in modo salato, non 10 euro. Certo, è molto chiaro. Allora lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, nel senso che una parte di questi sacchetti sono in realtà compresi a seconda del nucleo familiare, sì. e se uno invece consuma molto di più e butta via molto più cose, deve pagare. Bravissimo. Perfetto. Bravissimo. Per il blister è un polimateriale, un po' ha le controindicazioni dei polimateriali come il tetrapack, eccetera, però diciamo può essere riciclabile nella cosiddetta plasmix. Naturalmente noi lavoriamo perché il blister venga sostituito con modalità, per esempio cartacea, la mult paper, quella cartina un po' anche per le chewing gum. Certo. Si comincia ma il barattolo, Rossano, il barattolino con dentro le pasticche al volo come fanno in America, quello no? Il barattolo quale adesso? Il barattolo, cioè un barattolino di plastica anziché il blister, no? Certo. Potrebbe essere anche quello, fra l'altro anche con risparmio, dicono. Sì, ovviamente per rigore bisogna fare i confronti, le valutazioni del ciclo di vita, così a priori. Però voglio dire, no, oggi siamo in grado di trovare. Cioè, si possono migliorare anche i contenuti, anche i contenitori. Sì. Perché poi certo. ricordiamolo, questa è una cosa che voi fate al centro di ricerca di Capannori: quando un rifiuto non si riesce a differenziare, allora si studia e si cerca di capire l'errore di progettazione qual è. Si trovano delle soluzioni che, tra l'altro, ne abbiamo da raccontare, perché ci sono delle novità anche sulle capsule del caffè. Magari la settimana prossima ne parliamo. Vai, va bene. Grazie. Grazie mille. Ciao Rossano Arcolini, ciao, buona giornata. Stasera mi butto con te. E faccio di tutto per stare con te. Eccoci qua, allora 800 24 00 24. Che facciamo? Il traffico, poi gli ascoltatori, chiudiamo, vai. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ehi, è la mia nazione. Niente cambia qua. Marra, Raquel, Gepeke. Ti porto a fare un giro che è la bella età. Dovrei leggere il giornale, guardare il TG, il TV, per accorgermi che Stato e mafia sono intimi. Dopo che sanno già tutti, South Sand, sanno già tutti, i peggio che lo sanno già. E dovrei leggere il giornale, guardare il TG, il TV, per accorgermi che Stato e mafia sono intimi. Poco che lo sanno già tutti, Southend, lo sanno già tutti, il peggio che lo sanno già. Vengo al mondo con il piombo nel 79, con il cielo rosso sangue sopra la nazione. L'anno prima della bomba dentro la stazione, il paese inginocchiato ai piedi del terrore. L'ambientazione non cambia quando passiamo agli 80, quando è lo stato assassino. Sai, non esiste condanna, basta una botta di pala per insabbiare la trama. E tutti morti ammazzati dentro le stragi in Italia. Poi la nuova alleanza tra politica e mala, la faccia buona e pulita, la mano armata insanguinata, i pilastri di cemento con i cristiani dentro. Va bene, Marrakesh, quel pechegno per Bella Italia, perché per un appuntamento, insomma, che riguarda la corruzione, perché questa settimana c'è stato l'ennesimo slittamento, il DDL anticorruzione, molto atteso. C'è stato anche la rottura nella maggioranza sull'allungamento della prescrizione nei reati di corruzione, insomma, con il nuovo centrodestra che è contrario ad allungare troppo i termini della prescrizione, ma il ministro Orlando vuole evitare anche in questo caso colpi di spugna. Insomma, settimana interlocutoria. Noi abbiamo trovato però una buona notizia, un appuntamento. Partirà tra poco un corso di specializzazione, una specie di mini master all'università di Tor Vergata, un corso anticorruzione, e ne parliamo con il professor Alessandro Inna. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Appunto, responsabile di questo corso che si chiama Organizzazione e comportamento amministrativo, performance, trasparenza e anticorruzione. Rivolto a chi intanto? Dunque, rivolto a una particolarissima categoria in questo momento nel dibattito pubblico, che sono i segretari comunali e provinciali. Dico delicatissima perché è una figura che hanno un po' le redini delle macchine amministrative. Sì, sì, sì. Sono il perno tra politica e amministrazione, hanno il ruolo delicatissimo di organizzare sostanzialmente tutto l'ente locale. Sono quelli che di solito finiscono sul giornale non per delle cose belle, giusto? Sono quelli che hanno hanno la sindrome del portiere, li scopriamo solo quando prendono il gol. Perfetto, poi fanno tante cose. L'ha detto molto meglio lei, giusto? Professorina, lei che cosa gli vuole insegnare a questi alunni qua? Cioè, a comportarsi bene? Ma guardi, il primo dato penso sia vada detto ed è una bella notizia. Questi signori si pagano, è gratuito il corso, ma pagano da soli, di tasca propria, tutti i costi di missione e di pernottamento. Abbiamo avuto su 80 posti 470 domande da tutta Italia. Quindi adesso si entra attraverso una mazzetta a questo punto, perché non ci sono. No, c'è stato un bagno. L'applicazione tipica sarebbe fantastico. Come si spiega questo boom di richieste per un corso anticorruzione? Ma in realtà il corso guarda l'anticorruzione, la performance e la trasparenza, sono tre temi, i tre assi di rinnovamento, sì, della pubblica amministrazione. E me lo spiego perché nei colloqui loro stessi ce l'hanno spiegato, ci hanno detto che sono, diciamo, le tre più grandi responsabilità che vivono in questo momento come fondamentali, come importanza. E la verità è che i corsi classici, cosa che abitudine nostra italiana, spieghiamo le norme, un pochino meno le tecniche e le modalità per applicarle. Ma c'è paura da parte di queste persone che hanno responsabilità, di questi segretari, sì, comunali, di incorrere in qualche reato? Perché sembra quasi che, insomma, in Italia chi inciampa o si fa corrompere o corrompe, poi in realtà la passi abbastanza liscia. Non è che ci sia tanta gente in carcere per questi reati, è quello che Alessandro no, statistica. bravissimo, con il punto. La normativa, la cosa su cui lavoriamo, è la prevenzione, non, sì, il contrasto innanzitutto. Quindi l'idea è proprio quella, siccome ce ne sono pochi, il problema non è tanto, non è solo un tema di contrasto e quindi di punizione, c'è un problema proprio di prevenzione, perché quando arriva ormai l'atto, insomma, come dire, già tardi, sia dal punto di vista del danno. E quindi l'idea qual è? Quella di lavorare sulle possibilità e capacità di individuare ex ante possibilità e modi e modalità. Quindi che di so, per esempio, adesso va di moda, lo ha previsto anche Raffaele Cantone, presidente dell'anticorruzione, la rotazione degli incarichi sui dirigenti, no? Per evitare. Ecco, questa per esempio è una misura per evitare, no? Per prevenire, però per esempio è una misura delicatissima, perché se io faccio ruotare tutti nell'ente improvvisamente, questo potrei poi pagarlo fortemente in termini di specializzazione, di competenze, sì, di efficienza. E quindi per esempio come si progetta una misura come questa? Quali sono le analisi che si devono fare per bilanciare quello che è la prevenzione del rischio di corruzione rispetto all'efficienza dell'ente? E quindi il corso non è frontale, questo lo voglio dire, è la cosa interessante. Loro vengono, hanno 2-3 ore di introduzione, cioè, e poi diventa sono quasi solo un laboratorio tecniche. Per affinare disciplinare i cacciaviti per poter poi intervenire in maniera più pratiche, cioè sono solo laboratori pratici, quindi sì. Spostare completamente l'atto formativo dall'erogazione di conoscenza all'allenamento di capacità di tecnica. Professor Inna, ci dica una cosa, tra gli iscritti lei sa già i nomi, c'è qualche segretario comunale di qualche grosso comune? No, a dir la verità io non li so, non perché hanno ancora finito la selezione l'albo, perché la selezione ovviamente l'ha fatto l'albo dei segretari, ci hanno dato, hanno definito la lista complessiva, partiamo la prossima settimana e da lunedì avremo il profilo del primo gruppo, perché gli 80 sono divisi in 4 gruppi da 20. Ci dà un titolo così di uno di questi corsi, tanto per avere idea su in materia di anticorruzione? Sì, sulla parte di anticorruzione c'è tutte le modelli, approcci di analisi del rischio di corruzione e progettazione delle misure obbligatorie e ulteriori. Insomma, tre blocchi sono. Uno è l'anticorruzione, uno è la trasparenza e uno è la performance. Su questo vi voglio dire una cosa. Sì. Il punto chiave è che invece che tenerle separate, una volta che decidiamo qual è la politica anticorruzione del nostro ente, il problema è adesso chi responsabilizziamo per attualizzarla. E questo è il tema. Cioè, lavorare sull'anticorruzione non è una logica di compliance, non è una logica di comprensione della norma, ma in una logica di responsabilizzazione degli individui. E questo è il ruolo del segretario, quello di capire, delegare, controllare e valutare. Noi la ringraziamo comunque, professorina, perché insomma un corso anticorruzione ci rincuora. In bocca al lupo, grazie. Vediamo anche nei risultati. Grazie mille a voi per l'invito. A presto. Lo richiamiamo perché mi sembra stupenda andrà a finire. In realtà non c'è il tempo per farlo, ma volevo chiedergli molto rapidamente, semplicemente, se c'erano persone che magari fanno il corso per imparare meglio poi a essere corrotte senza farsi beccare, perché comunque vai a studiare anche i metodi dell'anticorruzione. Astuto Gabardini. Allora, dobbiamo dire chi vince oggi il premio messo a disposizione dal Comune Virtuoso di Mezzago, il cesto dei prodotti a base della asparago rosa. Se lo aggiudica Maurizio dalla provincia di Forlì Cesena, con la storia, con la super balla dell'aver fatto il legionario per conquistare la moglie. Grandissimo. La parte bella è che poi ha conquistato la moglie, si è sposato e dopo 12 anni gli ha detto: guarda che non è vero. Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone in redazione, Andrea Piana autore insieme a noi del programma, Paolo Corleone in regia. Grazie a tutti, ci sentiamo domani. Ciao da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini, buon sabato.